La crisi economica qui non si sente, lo dicono molti galleristi fra gli stand di Arte Fiera a Bologna che oggi chiude la 32esima edizione. Quest'anno gli organizzatori hanno brindato ad un più 5% di visitatori, un numero e un segnale che l'attenzione verso questo settore cresce e non solo gli occhi di critici, artisti e galleristi che guardano con passione le opere esposte. C'è anche chi investe, chi è mosso non tanto dall'istinto, dall'emozione, dalla creatività, quanto piuttosto dal valore, plusvalore di un'opera. Niente di male, l'arte è un'industria e spesso un rifugio per tanti portafogli. Tanti, ma comunque un'elite. Cifre a più zeri hanno soltanto fatto sognare molti appassionati. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Bologna.